Adesso sai che la risata è stata una bomba. Per carità. La tarina sta dormendo, la tarina si sta coperta. No, oh, è che sta facendo i concerti con Giulio. Ehi, lasciali fare i concerti. E così che non risponde. Ehi, vai da salotto. Guarda, c'è troppo il perché l'ho avvicinato alla corni. Cos'è dato? Il microfono normale va? Sì, sì, questi apparecchi ci vuole quello normale, ma lui. Quello che mi hai dato tu, l'innoiti. A quello c'è già? Qua ci vogliono quelli normali. Cava, vediamo un po' se risponde quel natalino Alfa 1 Gappo. Attenzione natalino, si ascolti qua, Gappo. Madonna natalino, allora il vostro luce, vi fai le bella luce, mi da buio. Oltre ne ho messo un altro in vendita. E cosa? I bacchi. Bacchi tu? Tu. Uno bianco di questo buco. Uno bianco? Ehi, se ci accende ma da testare, non so, buco. A testate ti devono prendere. Ma qual è il pezzo? Se ne bocce due. Ah, non lo bocce due, chissù. Cazzo, non lo vedo quando lo bongo i bacchi. Ma qual è bianco? Quello... con due smizze, no? Mi sembra. Sei sceso di prezzo anche. 40 l'hai messo. Sì, anche quello in radio, ragazzi, non ha furto. Cantare le tutte giù. Al discorso, se tu scrivi da testare, come ti credo di dire non funzionante, Emanuele. Cioè scusa, Cava cava. Certo l'ho venduto quando lo conosco. Bravo, bravo. Se funziona non già te li comprano. Capito? Ma se scrivi da testare, la gente lo segue. Ma l'ho venduto lo stesso, ragazzi, non è un caso. Mi ho solo questi due, questi li tengo. Io sto dando questo, 30 euro, ma non lo vuole nessuno perché è colto, capito? Comprate, comprate, non bisogna vendere, bisogna comprare. Via, a quel porco di Marcolino, mi. Ciao Marcolino! Via, buona serata a tutti. Sono in ascolto qua, sto aspettando una chiamata. Vabbè dai, io mi assento un altro, occasionale ci sentiamo più tardi, io vado a far la luce. E io, ciao dopo. Ciao Manuel. Ciao Marco. Via, gatta gatta. Le tonsille le hai viste, sì. Le? Le tonsille. Cille. Le tonsille, dallo sbadiglio. Ah, poco mancavo. Pago, pago, mancarria, là. Sì, vabbè, un mortorio. Prima era mutto, siete entrati giusto voi. Prima era mutto, non ve un'anima. Che ore sono? Le 5 ci sono. Quasi, dai. Beh, io l'ho appena acceso, ho sentito poi Emanuele, ho acceso e stavo ascoltando i 40 metri. E poi ho sentito Emanuele. Sì, io non sto ascoltando più nemmeno in HF. Ogni tanto mi stanco e poi lo lascio nella polvere, anche dice Vittore. Ogni volta che gli tolgo due litri di polvere lo devo spolverare da capo e poi mettere via. Capo. Mi ascolti bene in radio, Luca, vedi, un po' 1, 2, 3, 4, 5. Modulazione mic normale. Sì, se ti allontani un pochino è meglio. Allora, così era prima, così è due dita dal mic di tre quarti e poi non frontale, meglio? Anche di più puoi fare. Un mic normale questo mi, aspetta. 1, 2, 3, 4, 4 dita dal mic, oppure parlo piano tipo così, dai, il servizio c'è l'altro di... siccome l'udito anche sta diminuendo, allora farò più forte. Sì, no, ma va bene, magari c'è il mic gain al massimo. Come tu? Ho detto, magari c'è il mic gain al massimo. È naturale. Sì, se ti avvicini molto al microfono, abbassa il mic gain al limite. Sì, vabbè che sto rumorando le mollettine, sente questo mic. Sente un po' ruvido, va rodato. Ciucucciù. Sì, un po' di rumore mollettina c'è di fondo. Aspetta che è arrivata la chiamata, Luca, bianco per me, dai, a dopo. Sì, vai Marco, fai. Attenzione, Marcello. Fifiu! Vabbè, Luca. Luca a me. Che? Franco, Marco sono. Sto usando un baracchino diverso, sembravo Luca. No, c'era fino a... quant'è? 3 minuti fa, 5 minuti fa. Dai, Franco, ci sei a po'. Mi ho dovuto fare il filo nuovo dell'MC60 perché era interrotto, ragazzi, un casino qua. Attento, Franco, ascolta mia, gara gara. Ciao Natalino, buonasera, ben ascoltatus. Ciao Marco. Cacchio, in versione camionista, Natalino, bello l'eco però, eh? A ti piace te. Sì, con l'apparato ce l'ha bello l'eco. Via. Cava gava. Come mi ascolti Marco? Con lo scala Radio 5, Radio Kimbe. Vabbè, caro Natalino, come mi senti? Sto provando un apparato. Ma quello che mi avevi detto? Eia, il corriere ha ritardato di un giorno. Poi ieri avevo da fare e non sono entrato. Ecca, va bene, bene. Sì, siamo lì, dai, diciamo, siamo lì. E... certe cose le puoi fare, certe no, come il 3009. Per esempio la scansione non c'è, almeno credo di aver capito che non c'è. Non hai 10 kHz così come il normale 3009, quello omologato. Ne ho capito. Questo è il beep, non lo puoi modificare, credo che sia intorno ai 1000 Hz. Sì. Ma tu guarda che ti ho mandato quella foto del gommone. Già l'ho vista, ma ti piace? Eia, yes. E l'ho sistemato stamattina, l'ho gonfiato perché sennò è un casino. Quello è bello per andare a pescami, in alto mare. In alto mare, addirittura. Ci serve. Natali, come sta andando il MC60? Va bene? Sì, signore. Gaba gaba. Adesso mi ascolto. Ascoltati. Luca, cos'è questa roba? Una postazione remota, cos'è? No, è la radio come collegata al computer. Ma la puoi comandare dal computer? Certo, faccio tutto col mouse. L'ho compreso. Allora puoi fare tante altre cose. Tutta la radio, anche 706 avevo collegato al computer. Poi ci sono i vari programmi che utilizzi, ti dà le schermate belle, capito? Oia, che giornata che brulla, sta anche piovigginando fuori, sono dovuto scendere a fare una commissione veloce, sta un po' piovigginando, quindi altro che andare in giro. Infatti. Domani dovrebbe essere sole, prevede sole, se non hanno cambiato la previsione. Domani mi sa che è dato pioggia pure domani, boh, non lo so. E tutta la prossima settimana pure dice che fa tempo brutto. È un casino, se non prendi più nulla hai più tempo. Andiamo bene, andiamo. Voglio vedere quando si sia a farmi i ragazzi miei. Riprendete dai che mi sistemo alcune cosette, che qua c'è tutto volante. Gaba. Avanti Marcolino. Dobbiamo collocare l'FM, la banda laterale adesso. No, adesso già va bene. Prima non stavo andando, no? A volte usciva, a volte non usciva. C'era il filo spezzato dentro, l'ho rifatto tutto il cavo nuovo. Quello che prende è praticamente dalla base al microfono. Era tutto interrotto, c'era un filo rosso tutto interrotto. Non l'ho toccato, mi è rimasto in mano. Adesso va bene. Ok, dai, riprendete e sistemate alcune cosette. Gaba gaba. No, lo devo a questo in realtà. Per quello che stava succedendo. Oh signor. Informata. quindi è quello corto il capo che hai fatto, fra. Va bene. Cazzo, io ce l'ho senza essere spiralato, a cazzo grosso un dito il capo, cazzo, dell'MC60. Ma è una belva quell'MC60 che c'ho io. Infatti. Io gli ho messo il capo grosso, va. Così non si faccia più. Sì, infatti. L'ho fatto bene, con la calma. Opera d'arte proprio. Capito, Gabe? Yes. Fra, quando è che riusciamo a controllare quello struzzino del cristallo? Che così almeno la mettiamo a posto, se no è un casotto. Quando vuoi, passi. Ero controllemmo, cambio, e c'è a provare questo qua invece. Lecco a vedere come va. A dito Natalino, ascolti questa piccola modulazione, cambio. Io ti ascolto bene, gava gava. Ha detto Marco, ascolti questa piccola modulazione, capo capo e capo capo. Ma voglia, qua Natalino, anche Franco esce bene, ma Natalino è stupendo con quell'apparato. Io sono piccolo e nero, non c'ho eco, io c'ho 3,5 miseri. E io ne ho due qua. Che adesso chiudo, fratello, tutto sotto controllo da parte mia, copo. Cattelli, cosa intendi due? Due ecco, uno sul mic e uno sull'apparato. No, due watt solo. Scusami, due watt. Ah, portante multa, ma due watt quanti? No, guardate. Riesce a vedere. Ah, non è che c'ha quei picchi allucinanti, no? Riesce a tenere la potenza bassa. Seia, un'altra cosa è lì, la potenza qua, se lo fai export, non è regolabile. Cioè, ti aggiungi i canali, però c'hai roba di 12 watt in M e non li puoi abbassare. Quella è un po' una grave pecca. A meno che non ci sia qualche menu di servizio sfruttabile. Anzi, se lo tengo, ecco di nome Biasi, anche se dice che è bello. Io non mi sono ascoltato perché non ho altri apparati per potermi ascoltare e quindi non lo so come esce, dai. Certo. Ed è bello il mio eco, così è. Sì, è come quello del 5005, è lo stesso apparato, sì. È regolabile, uno se lo mette leggero, io guarda lo faccio appena percettibile e con una ripetizione anche rapida, non lunga, proprio breve, te ne accorgi appena, quello è il migliore per me. E invece il mio come fa? È lungo, ripete un bel. Cara guerra fratello! Dito Marco, ascolti questa piccola modulazione, cambio e capo. E quello che apparato è però? C'è il bip lungo, non è un 48, no? Chiara, un 68, cambio. Sì, ma il bip non è dell'Alan, è giunto. Cara, Marco, ha giunto il bip. Peccato che questo non me lo posso mettere in macchina, sennò potevo uscire versione camionaro. E chi l'ha detto che non lo puoi mettere in macchina? Ma c'è un bel ragione. Natali, se trovi un sistema come faccio io, in macchina ci faccio stare tutto. È presente? Come sta a fare avvitata sotto, no? Lo so, cazzo, ma da voi si vede, io... Questo qui non ci sta dove ho messo l'altro, capito? Io ne ho uno piccolino in macchina, capito? sì. Ma ce l'ho in macchina, volendo io posso modulare dalla macchina, c'ho anche l'antenna, c'ho tutto. Subito. Però mi sarebbe piaciuto avere l'eco di questo, là, e la potenza regolabile. Invece chi tu va giù tre bari, i dazi, capito? Se tu lo volevi a scomparsa l'apparato. Questo è troppo grande e poi non lo voglio togliere da casa, c'ho solo quello. Cazzo, il 2009 non si sa se me lo aggiustano, se no io non ce lo devo buttare pure. Boh. Cazzo, bello era il 2009, vedi che era omologato. Però sarebbe il colmo Natalia, cioè se non puoi riparare un apparecchio con i componenti classici è inutile. Cioè, noi diamo la colpa agli SMD, ma se non si possono riparare almeno quelli apparati con i componenti vecchi, inutile. Ma quello lì l'hanno messo a mano, se no non sarebbe sfasciato così, capito? Io l'ho sempre trattato bene, 4 watt lo stavo facendo uscire, però visto la cosa che è successa, è stato messo a mano. Non era nuovo di fabbrica, si sarà rotto per quel motivo lì. Si è trovato la presa dell'altoparlante mollata e c'erano le saldature mollate, dimmi tu. Sì, adesso rilancio Franco, però Natali, lo schema l'avete trovato, si trovano, dettagliati anche, però non mi avevi detto la versione della scheda, te l'avrei trovato bello grande. L'ha trovato lo schema dai francesi, i francesi lo danno lo schema bello dettagliato e ce l'ha messo nel computer, capito? Adesso domani quando viene glielo chiedo a vedere cosa ha combinato e se si può aggiustare, se no tiro un lampo e buonanotte. Ancora non mi ha dato neanche il 440, quindi sono senza apparato. Poi il 440 come lo ritiro me lo vendo. Sì, vegani, il sole sta uscendo, vai non ammala. Dopo aver iniziato a uscire, vabbè, qua ti volevo vedere Natali, e allora il componente bisogna trovare, così è, se mi dite la sigla con calma, cerco anch'io su siti americani, giapponesi, quello che è, dai, Franco riprendi. Stavo provando questo Tanner più 3, va bene? Sì signore, bella chiara di lusso. Non si tratta del componente, il guasto bisogna trovare, quello che ha fatto crepare l'integrato, capito? Bisogna trovare la causa che ha fatto crepare l'integrato, se no è inutile aggiustarlo, cioè tu lo metti e te lo bruci attorno. Aspetta che mi sistemo qualche cosetta, Natalità, riprendo subito che c'è un casino qua. Scappa. Faccia come se fosse in casa sua. Chiappa, chiappa, allora, vabbè, se no scusa, che ci si può risolvere, che sia di professione con quegli apparati, c'è questo dei paesi, ma non mi ricordo il paese, Ottana, cos'è? Sì, di La Cagliari, cosa, no, se non ci riesce quello che lo sta mettendo in mano, non ci riesce nessuno, non ti preoccupare. Che quello ne sa, ma a me però, ma poco no, non lo vedi che aggiustava Kenwood, Yaesu, tutte quelle cose lì, non vuole solo che altri, 3.009 chissà quanti ne ha messo a posto, ma non avevano quel danno, hai capito? Vabbè, però c'è una strumentazione, hai detto che si era rotta o com'era? No, comunque ho sbagliato, non è Ottana. E dove è andato Carlo? Che paese era? Non lo so che paese era, comunque già lo posso dire a Carlo, ma è inutile. Capito? Lo strumento gliel'hanno buttato nel cassonetto del centro ecologico, gli hanno buttato quello e anche un frequenzimetro di quelli professionali, che era grande quanto un 440 quello lì, che me lo ricordo. Quello dei servizi è che gli hanno buttato anche, che quello costa 400 euro. Hanno sbagliato furgone, un furgone è andato a buttare la roba buona e a lui gli è rimasta la mondezza. durante il trasloco, hai capito? Cacchio, praticamente era l'oscilloscopio, no, che gli hanno buttato. No, ma lo ricordo, è uno strumento che avrebbe trovato subito il guasto qual era, immediatamente l'avrebbe trovato e l'avrebbe riparato, e men che non si dica l'apparato. Infatti se ne sta costruendo un altro lui, perché se lui sa anche costruire gli strumenti, se si fa le schede, lui prende e si fa la scheda madre, non lo so lui. Ah, ecco, me l'avevi detto, avevo detto, è andato a fare compagnia al mio accordatore Rosmetro, con lo strumento suo, alla discarica. Infatti, saranno assieme, saranno tutti belli triturati. Che discarica avranno detto? Ma io avevo detto che sta buttando oscilloscopi, accordatori, fra un po' ci fa la stazione completa. Che non si può toccare niente da lì, una volta che entrano lì vanno riciclata tutta quella roba, non puoi toccare nulla, ti arrestano, è furto, se tocchi qualcosa da lì. Sì, ufficialmente non si può toccare nulla, ma vuoi che qualcosa non ci esca, e vabbè. Poi con l'ignoranza che c'hanno quelli lì che ci sono, ti pare non sanno manco a cosa servono quelle cose lì. Ma almeno a rivenderle, uno dice, beh, c'è una cosa, io attacco la spina alla 220, se si accende, vabbè, non tutto però lo puoi testare, per esempio il rosmetro accordatore è una cosa passiva, capito, non puoi alimentare e vedere se si accende. Adesso costa 200 e qualcosa. Io mi ho venduto tutto, non c'ho più nulla qua, c'ho un rosmetro Diamond e boom. E questo baracchino qua non c'ho più nulla. Ma cosa ti tengo a fare? Eia. È carino anche quel Diamond, io devo scegliere tra il Diamond che hai tu come rosmetro wattmetro o il Daiwa. Ho scelto il Daiwa perché non, almeno la lettura era immediata, ad aghi incrociati, ma non solo per quello, perché lo Smith era molto, molto grande nel Daiwa. Siccome la mia vista sta andando a ramengo, più grande lo strumento meglio è. Poi lì è proprio al colpo d'occhio, lo legge a distanze, watt e stazionarie, che in occhi non vi è, quindi inutile. Ehi, anche il mio Diamond si legge bene, anche se è piccolo lo strumento, perché gli ho messo la lampadina bianca, il LED bianco, mi fa una luce paurosa. Aspetta, voglio vedere il prezzo dell'MFJ adesso. Io l'ho pagato 150, tu già di più, e mi hai detto che hai aumentato ancora. Ehi, costano una cosa impossibile adesso. Allora, questi sono matti, allora sto già vedendo i prezzi, MFJ 945E, quello che avevamo noi, lo stesso, versione da Amma Radio Shop che è caro, 252 euro, questi sono matti, c'è 100 euro in più rispetto a quando l'abbiamo comprato noi. Vedi un po' se ti sto dicendo cavolate. 169 c'è anche, Marco. Quello è un prezzo onesto, ma Radio Shop è che è un ebreo. Qua sto guardando i prezzi, allora, 1,277, questi sono fuori in testa, più 10 euro di spedizione, poi da un altro costa 2,42, da uno costa 2,50, no, sono matti. Stanno alzando i prezzi a dismisura, con la scusa del Covid, con la scusa della guerra imminente, tutte balle. Fuori di gas, tu pensi, io l'avevo pagato 105, adesso se l'avessi venuto a metà prezzo del prezzo attuale, io potevo dire, l'ho preso adesso, da poco, 2,50, facciamo metà prezzo, lo vendevo quasi al prezzo del nuovo a cui l'avevo pagato io, vai fra. È un casino, vabbè. Io devo cambiare l'antenna qua perché c'ho quasi un'esce di stazionaria. Oh, ma su questo canale? Sul 20, su 10 ne ho 1,4, a Allora, se vado sul 40 ne ho 1,2, se vado sul 20 ne ho 1,5. Conta che oggi sta piovicinando e l'antenna sarà, non dico bagnata, però umida, sarà umida, un po' influisce. No, lui a posto, Luca, ce l'ho, c'ho il live. No, va, adesso, come migliora il tempo, mi Natali la butto giù. Ma cazzo, se non fa zingaggio, cosa cazzo fai? Se lì pure la prossima ghita fa il tempo maro. Cazzo, io ho bisogno di prendere il sole, non posso fare un cavolo, perché sta facendo sempre il tempo rosco. Ma io lo faccio, diciamo, quando migliora un po' il tempo, capito? Sì, lo so. Sì, se no salire adesso è un casino. No, poi se ci sono le tegole umide non ci salire, no, ti rompi le tegole, fra. No, fino a quando non migliora il tempo non faccio nulla, Natali, assolutamente. Cos'è, tetto di tegole? Allora, no, vabbè, già sono quelle tegole piatte, non sono di quelle particolari bombate. Però, cioè, non è terrazza, da me, vabbè che non è mio, il terrazzo qua, però qua è un bijou, qua puoi fare le capriole. Infatti viene bene installare roba qua, perché c'è il terrazzo, no, col parapetto, c'è enorme, enorme. Infatti quella volta con Pompone abbiamo lavorato bene. Lo credo. Sul terrazzo si lavora bene. Il casino è sulle tegole che si lavora male. Capito? Quello è il problema. O se sono inclinate solo lì. Certi hanno le tegole spioventi, no? Quindi e lì è l'onfio, mamma mia, bisogna avere la cintura, quella che usano gli installatori, c'hai capito? È un nome. Vabbè, io ci metto a buttarla giù e piazzare l'altra, in un'ora è fatta, Marco, fatta bene, capito? E stavo pensando, Natali, quando salgo ci metto il dipolo di 40, su, capito? E te lo do io il dipolo, addirittura è multibanda, te lo regalo io il dipolo, fra. Tanto io già lo sai, non me ne posso più nulla, non sto ascoltando, non sto facendo più nulla. Quindi no, te lo do a te il dipolo, te lo piazzi lì. Vabbè, se non lo usi, se ti serve a te, ti rendo, io me lo rifaccio, me lo faccio, non ho un problema, capito? Tutto lì, ma dove c'è anche questo capo di merda che ho messo, questo 58, no? Che non serve a niente. Oh, io consiglio, se proprio lo vuoi sottile, almeno l'H155, quello grigio, quello rende quanto il 213, però più sottile, e appena meno flessibile del 58. Il 58 è proprio ormai, va bene solo in macchina, capito? Poi dipende un attimo, quanti metri ne hai? 60. Lampacchela. Sì, no, la faccio in 1000 pizzi. Ma la volevo la persona, che la do, che l'avevo promessa, Natali, e poi c'è la piazza lì, e dalla mi piazzi quella che c'ho io, e se la dama non va nei radiali e nulla. Infatti piazzo quella, gli faccio un bel lavoro, vedrai. Ma la posizione che sei tu, cazzo, intendi tutto il mondo. E infatti la piazzo su, fatta bene, e vedrai come va bene. Scatta questo microfono, mi dà dei problemi, a volte usciva, non usciva del radio, cazzo. Hanno messo questo filo che fa schifo. E a chi toccava e non toccava. Questo filo fine che c'era faceva proprio schifo, capito? Come lo tocchi prima in mano. E ormai era pratico, bravissimo, Hai fatto quella giambato tutto il filo. Io ho messo tutto il filo grosso di quello otto fuori, capito? Quello grosso proprio. Vedrai adesso non si faccia più. Ti credo. Per carità. Microfoni che costano, cazzo, 200 euro e poi il filo che non serve. Ci sono microfoni vecchi pure, hanno il loro tempo, quindi sarà praticato il suo filo. E quindi è fallito. Si è interrotto e ti faceva quello scherzo lì, perché toccava e non toccava, capito? Guarda che questo MC60 è nuovo. Figurati che c'è ancora il cielo fa sotto il fondo. Non uso quasi mai, guarda, l'ho tratto ogni tanto. E anch'io ce l'ho l'MC60 nuovo, c'ho il Tarder più 3, il 308, ciò, buttato lì su. Cazzo. Tanto cosa me ne posso? Ma dove c'è apparecchio duro, lì funziona. Ma gioco bene quello. Ma io non è che lo uso spesso, lo uso ogni tanto, giusto per farlo funzionare, se non si rovina, capito? Infatti, a me che mi dispiace del superstar che mi si è crepato, quello solo mi dispiace, già era poco togli. Superstar è una bella radio, a me me ne devo parlare uno superstar, il 3009, non so se lo conosci, quello vecchio però, no come il tuo. E anche il mio era modello vecchio, anche il mio era modello vecchio, solo che il mio aveva i canali bloccati, capito? Perché era omologato, però se tu spostavi un jumper tornava normale come era prima e la potenza ce l'aveva 4 watt, io però la potevi regolare, però se io lo aprivo da voi mi dico l'omologazione, non hai compreso se così era il discorso, io la tenevo chiuso perché a me mi serviva omologato. Ho capito già, è per quello, viva Bucnata, io se vuoi fare, non si può installare. Non lo so, adesso se non trova la causa di quel guasto non si può aggiustare, bisogna che trovi la causa per cui si è bruciato quell'integrato. Già si trova, dai. C'è lo sistema. Ma cazzo, ancora non mi ha durato nemmeno un 4,40. Cazzo, dice che a smontarlo ci ha messo 9 ore. L'ha messo a posto, però ancora non mi ha durato. Cazzo di là, io sono un ghiccio baracchino su. Se non avevo avuto ghiccio, non potevo fare un cavolo. E quello è un bel baracchino lo stesso. Già va bene. Male ho fatto a vendermi quell'altro, preciso a questo. Quello era una bella, perché l'aveva tirato coso. Il padrone che ce l'aveva, quello che me l'ha venduto a me, ed era cazzo e poco buffava. Chissà di che era di Lusavio. Ma su quelle colazioni mi ne puoi fare anche tu una bestiolina. Però guarda, sono belli, però a me non mi piacciono questi baracchini con coso digitale, preferisco più l'analogico come strumento di segnale, mi piace di più. Sì, vabbè, anche a me piace di più, non mi dispiace per quello, perché c'aveva lo strumento analogico, il 3009, speriamo che riesca a mettermelo a posto. No, Era tutto bocciumare, gatta, ma mi posso, ti dico di farmi la fotografia di la scheda, così la manda a Marco e vede in che condizioni era l'apparecchio. Oh, ma tu ti ricordi il nome eBay del venditore? Perché se tu non hai dato una recensione, sei sempre in tempo per dare la recensione negativa. A fargliela pagare almeno, capito? Ma cosa cavolo, è che non me lo ricordo. Capito, dalla Spagna era arrivato. La fanculo. E poi, anche se gli mando la recensione negativa, cosa cazzo mi le sbatte al tipo? Chi rimane senza apparato sono io. Così gli altri dalle recensioni vedono che non è uno stinco di santo il venditore, capito? Oh, può darsi che non ne sappia niente nemmeno lui, può darsi che sia all'oscuro, che uno l'abbia ordinato, ma l'ha messo restituito e lui l'abbia rimesso in vendita in buona fede, come te l'ho detto, come pacchi Amazon. E infatti, ora se sia Brusi e il delinquente non sia quello che me l'ha spedito, ma chi gliel'ha restituito, quello lì sicuramente è un apparecchio che l'hanno comprato, sono andati a modificarlo, magari cazzo hanno fatto qualche casino. Infatti c'è Medurado, certo. Mi hanno tolto i soldi da bocca io per comprarlo, perché l'avevo pagato pure caro, me, me l'avevo giura. Vai, vai, vai, vai, vai. Curvi, vabbè, classico, Curvi uguale ma col cuore, come questo qua, con il cuore della Nippone. Ehi, già lo so, ma... Miracolo. La stiamo verde. Silenzioso. Già va bene questo, va. Tanto l'omologato, quello piccolino, ce l'ho. Ma è convenevole, ci puoi... Ti posso vedere chi su si viene a controllare, cosa vuoi ti dica? Ah, poi, oh, Natalino e Franco, allora praticamente rispetto al 3009, che da quando lo accendi a quando si stabilizza, e ci vuole un bel po' a stabilizzarsi, no? Cosa volevo dire? Scivola di 400 Hz, no? Da quando la accendi a quando si stabilizza. Questo c'è una stabilità granitica. Tu lo accendi e non si muove di 10 Hz. Cioè, tu non ti accorgi di niente, tu stai usando un normale 3009 in tutto e per tutto, però dentro è tutt'altra macchina, stabile, in FM non riceve strappato, lo smitter è un po' lento, capite? Un lento a scendere, come se gli avessero fatto la GC lento, non so se è presente del Kenwood, no, qua è lo smitter che è un po' lento a scendere, però vedi meglio i picchi dell'SSB con questo, capito Natalì? Ovviamente all'illuminazione dello smitter a LED. E io gliel'avevo fatta a LED bianco come ho fatto quella del Rosmetro. Se tu vedevi il mio 3009 era uno spettacolo. Mi ce l'ha visto Franco. Sì, sì, LED bianco. È bello vedersi anche. Display rosso, è come il vecchio 3009 l'aspetto. Con display rosso dei canali. Addirittura qua, Natali, le funzioni le vedi sul display dei canali, quello del menu, della modulazione. Ti devi abituare, ma è molto molto strano, ci devi fare la mano, però alla fine è come avere un 3009 a tutti gli effetti. Scappa. Sì, infatti, adesso mi uso sempre questa 2W, così non mi romperebbe male più nessuno. Franco, riprendi, che vado a pigliare la bottiglia dell'acqua. E un secondo, sto misurando la tensione dell'alimentatore, riprendo subito là. Cappa, a proposito dell'alimentatore, io praticamente mesi e mesi che non tocco più quell'alimentatore per striscia LED preso da eBay, quello che avete tutti. Sono mesi che non tocco più. Io ho un alimentatore di quelli grossi da 30 ampere, anzi ne ho due, uno ce l'ha il mio vicino perché gli serviva per aggiustare quel K. Ah, forse tu non ce l'avevi Natali. Quello piatto lì che ha Luca del Monte, tutti l'hanno preso, 27, quasi tutti. 20, io l'ho preso addirittura, non quello da 50 ampere, da 80 ampere, poi bisogna vedere se li dà. Costava pochi euro in più. E sarebbe il caso anzi di farlo funzionare, non sia che si inchiodi a lasciarlo fermo. Non so di cosa ci stia parlando. Il mio è un alimentatore con gli strumenti, tutto. Quello della Roxel. Ne ho due, uno da 35 ampere e uno da 30. Guardate permesso. Adesso c'ho solo questo da 30. Scappa. Ehi, no, mi sono sbagliato con te, tu non l'avevi preso, credo. Ce l'aveva Bombolo anche, ecco chi ce l'aveva, Bombolo l'aveva preso. E un bel gente l'ha preso, perché metti che c'è un lineare grosso, no? E non vuoi spendere una cifra esorbitante per un alimentatore di quelli lì, no? Da roba radio. Gli attacchi quello, vedo che i rumori non introduce né in ricezione né in trasmissione, cioè è meno peggio di quello che credessi. Poi allego foto, dai. Questo stava lavorando male, di pensione, era 11,2, l'ha messo a 2, adesso l'ho portato a 13,8. Bene va. Signore, ma stava muto di essere, così l'ho regolato. L'ho regolato con lo strumento adesso, col tessere, l'ho portato a 13,8. È tutto strano, era basso di tensione. Ora. Adesso anche la luce c'è meglio, così. Sì, la luce c'è anche più forte di watt, capito? Adesso è a 10 watt. Ora, quanto è il segnale da te? Il segnale non te ne posso dare, forno scala qua. Che segnale ti do? Sto facendo con 10 watt. Io con 2. spesso andava e anche la luce è più bella chiara, bianca, ma andà bene a me, da. Cazzo, non assorbe niente a due vasi, si muove poco a poco la lancia dell'alimentatore. E lì tu gli assorbi, però non c'è problema, è un bel alimentatore questo, 35 ampere. Sì, al grido. Anche questo è la 30, quello da 35 ce l'ha il vicino che gli serviva per aggiustare quell'apparato là. Non ne aveva alimentatore di questi qua, perché lui non ne aggiustava più baracchini né niente, aggiustava solo computer. Tu pensa che su chi va giù pesa più di 20 kg, non ti riguardo, vai. Ma è uno di quelli lineari. Sono da lì, è poco pesa, la lazza di Nivara ha pigliato. Se io ci avessi trovato una scatola mi avrei comprato il toroide e me l'avrei fatto toroidale l'alimentatore. Quelli sì che pompano. E quello che ho io, questa qua è una bestia, una belva, Ma io vado un burulacro, mi sono a 32, ma mi sono preso a 20 kg sul buono in busciacca. Anche perché c'ha la vento, ma c'ha tutto, capito? Lo so, perché quello da 40 ampere che avevo io, reali però, 40 ampere reali, perché l'avevo fatto modificare. Quello che avevo io era modificato, perché quando ci stavo a casa non li dava tutti quegli ampere lì. Dicevano 40 ampere, ma non li dava zia. Allora la porta mano uno e l'ha modificato. Cazzo, una belva era il salimentatore. Tu vuoi continuare questo? Un bimbo da manetta, un cavolo si usava. Allora questo qua c'ha 7 finali. Sì, io non me lo ricordo quanto ne aveva. Di qui 2N3055 c'aveva il mio. Però l'ha modificato dentro anche, perché non dava gli ampere che dichiaravano loro, quindi io non lo potevo usare con quell'apparato e allora l'avevo fatto modificare. Era una belva, un bijou quell'alimentatore era, mi sono pentito di avermelo venduto, ma pisava un trono. Ehi, già lo so qual era, a me lo di, va. Già l'avevo visto, quello lì, questo che ho io è uguale a quello che c'avevi tu, capito? Ne ho uno uguale, c'ha gli strumenti grandi, ma pesa troppo, guarda, sai, ti spacca il mobile. Sì, perché dentro c'ha un trasformatore bello grosso, è logico che pesa. Sì, ma secondo me, guarda, secondo me sono i migliori quelli, capito? Ma i migliori di tutti sono quelli toroidali, quelli lì sono professionali proprio. Adesso che me lo fa quando voglio, solo che mi devo buscare la scatola per poterlo, dove lo metto. Sì, ma la scatola la trovi, la GBC, mi pare che vi so. Mi ricordo che c'è la verba quello lì, capito? Se trovo la scatola già me lo faccio fare, adesso che me lo fa, quello ambroso, professionale, chi sia soldi, tutta vita. Chi si, chi si andare alla grande, capito? Ma va sì che andava il microfono, che c'è una bella modulazione. Sì, sì, in effetti sì. Ui, Zanca, anda bene me, dai. Stamattina l'ho lasciato gonfio, vuole fare, a vedere se picchia. Due giorni gonfio, vabbè, tutto della dalla ancora. Sì, lascialo gonfio, non a manetta, però gonfio lo devi lasciare. Capito, almeno sei sicuro. Se avesse fatto un po' di bel tempo, avremmo controllato quello spruzzino là. E io sono a casa adesso. Ehi, a Rusogu, ma... Qual è il problema? Una giornata che fa bella giornata lo facciamo. Sì, una attimino a farlo, Natale. Sicuramente ve lo dubbi fasciato come te da me, perché a me mi c'è rotto il tubo e leva mi trava dentro la macchina. No, a me non entra dentro la macchina, o perlomeno non penso. Bisogna controllare, là. Vabbè, da sotto la mocchetta, vedi. Ma lato passeggero o guidatore? Ma lato passeggero. Sì, già guardo a vedere. Se c'è acqua in terra, tranquillo, che c'è il tubo buccato e sta pisciando lì dentro. Perché l'ha fatto la mia. Infatti ha detto, ma questa acqua dentro la roba, ha già bruciato. Ed era parente dai chimi. A me... adesso mi devo portare una bottiglia d'acqua, riempire bene il serbatoio e guardare un po' la situazione. E lo controlliamo. Ci vuole acqua, devi prendere quel detergente per i cristalli, perché l'acqua forma calcare e ti ottruisce gli ugelli, capito? Quindi lo spruzzando dagli ugelli, c'è una valvola di schiatta, e schiatta dalla valvola, se la butta dentro la macchina. Yeah, by demo. Ma gli ugelli sono pervi? Ah, gli ugelli della macchina, sto dicendo, quelli dei tirgi, con Marco. Capito? Quando si ostruiscono quelli c'è una valvolina attaccata con connessa, collegata a questo tubo, che quando sono intasati qui li schiattano con la roba e va a finire dove? Dentro, sotto la mocchetta. Ehi, quelli dello spruzzatore, Natalino lo sa se sono pervi, se no prova a mettere una goccia di aceto, una goccia di aceto per sciogliere il calcare, come scioglie l'uovo, non le guscio l'uovo, scioglie il calcare anche. Sì, perché devo mettere il detergente, perché l'acqua non va bene. Sì, Natalino, metti il detergente, quello azzurrino, lo metto anch'io, perché ti scioglie più la romaccia che c'è. Prima devo disoscrivere gli ugelli di sinistra, quelli di destra funziona, quello di sinistra non comparte. Sì, prova così, una volta ho risolto così, un goccio di aceto sul forellino dell'ugello, aceto bianco, quello per il condire di salata. Ehi, vediamo un po'. E poi dobbiamo controllare i tubi se sono buoni. Senti. Ma sicuramente dal tubo come ti ho detto io, perché lo faceva pure la mia Natalissa, capito? C'era il tubo buccato e l'acqua praticamente andava a finire sotto la mocchetta, dallo sfiato. Hai te ne ha voluto. Cos'è quel casino? È la ventola di quegli alimentatori piatti da striscia LED, quelli con la morsettiera. Ma che casino che fa? Ma infatti no, non sentivo la radio, non faccio il volume, cioè. E la ventola va bene, gliela puoi staccare, tanto scalda zero. Anche quando lo usi è sotto carico, non scalda nulla, e la puoi staccare perché così è un casino. Vabbè sì Marco, in definitiva è così. Ma vabbè, non ci vuole niente di Natalia a controllarla. Tanto si vede subito, se perde, capito? Ma i tubi si trovano, casomai siano rotti. E a Puglia. Io l'ho messo il tubo di quelli di coso, ma tubo di pressostato di lavatrice che ce l'avevo, di quelli gommati neri, e va benissimo, non si sfascia. Vediamo un po', la controlliamo e vediamo cosa male ci va. Possono essere anche gli ugelli intasati, capito, dal calcare. Ah, ma quello non è un problema, pulirli. Ragazzi, io meglio puliti con il filo del rame, di quello sottile e sottile, l'ho filato dentro, l'ho pulito, poi l'ho fatto sbruzzare un bel po' con il detergente, va alla grande adesso. Ma a me mi pisciava anche acqua dalla capota, capito? Perché lì c'era il tubo spaccato, quindi quando spruzzavo l'acqua del tergi posteriore, invece di uscire dal fruttino ci va direttamente dal tubo spaccato alla fine della capota. E ho capito. L'ho risolto anche quello, via. E purtroppo nella macchina c'è sempre da fare, capito? Sì, ma va, se ne ha bisogno di tutti i difetti. La strada mi sembra arrabbi un motorino di l'altro retro. Certo. Ma dove si pone il rubetto nuovo? Quello si è spaccato perché è partito il tendicillo. Si è sbacciatano, ha attorcigliato tutta la cordicella. Un casino. E infatti si è già acciappato tutto dentro allo sportello. È stato un break, mi pare. Ha fatto il break. Buonasera, Mario Porto Torres. Se volevo sapere come mi ascolti, se non sbaglio, California. L'altro non lo sento, e a te, Franco. Allora, 5758 Mario qua, da me. Questo è, grazie, molto gentile, buona serata, continuate pure questo giorno, so chi sia l'altro amico, comunque saluto anche a lui, ciao California, a te. Buonasera, allora riprendo io, ciao Mario, buona serata, buon tutto, buono stand by, ti dai, stai facendo stand by, al limite, comunque già siamo qua, non vuoi entrare, non c'è problema. Ok, vai Natalia. Mi cappa, io avevo lo squelch e non ho sentito nessuno. Mario del Portatore, se non sta lì, in compagnia mia comunque di Marcolino. Vai Marco, ascolti a Mario. Un saluto a Mario, un saluto a Mario, l'ascolto discretamente bene. Prova tu Natalia, se lo senti? No, c'ho lo squelch, se no mi tocca attendere un rigittorio. In ogni cammino. Ciao Natalia, se mi ascolti, salutatelo se non mi sente. Di nuovo, ma rimani in ascolto qua, 10 minuti. Perché poi devo uscire, eh? Avanti pure California 3. Ok, questo riprendo io e rilancio per Natalino. Vai Natalino. Cappa. Vabbè, io sono in condizioni precarie, dai. Guarda, va 8, Ma io sono in condizioni precarie, tu sei più in alto di me. Ma non dico magari arrivarti 8, ma a Santiago 6 e roba del genere, cacchio, è incredibile lì, c'è un buco nero lì, è una talì, è una zona strana. Cosa vuoi che ti dici? A me Mario mi arriva 5-7, 5-8, quasi a picchi di 9, comunque qua, vabbè io sono... Forse è una cosa più aperta di quella natalina perché sono in zona alta. Sì, non c'è paragone. Io portatore ce lo vedo tutto, prende, se vede tutto quanto, la Ginara, Dottordorra, Castelsano, non lo so, perché ancora non c'è proprio, non ho mai sentito nessuno da lì. Però come zona è molto aperta la mia. No, io sono penalizzato, allora l'antenna non vede Porto Torres. Di Porto Torres vede solo la zona industriale, dove sono le torri, quelle proprio sono a vista ottica, però proprio il paese è coperto da via Gorizia, tutti i palazzi da via Gorizia in su, capito Fra? Vabbè, ma se vedi lì è aperto anche per Porto Torres, ci arrivi tranquillamente, non c'è problema. Sì, diciamo non è portata ottica, però tutta la collina di Prodicedda mi penalizza molto, molto, molto. Allora, io l'altro giorno ero a Porto Torres in BM, non so se mi hai sentito, e stavo utilizzando un baracchino dell'Amico, si può dire che Natalino non sa che baracchino è, un Intec di Veci, che mi pare 40 canali, e un'antenna piccolina, che sembra un'antenna da radio praticamente, e spara bene. Ma era quel controllo che ti avevo dato, che avevi detto, sto usando un'antenna tipo 80 cm o meno. Esatto, quella lì, e ci ho piazzato quella in macchina, capito? Sembra un'antenna da radio. Fra, guarda WhatsApp e anche Marco. Sì, io devo pigliare un telefono perché ce l'ho fuori. Andiamo, vai, andiamo. Ma me proprio mi. Natalia, hai visto l'alimentatore? Te lo ricordi? Te l'avevo già detto. C'è la Luca, l'altro Luca, tutti ce l'hanno. Questo è 80 ampere, poi magari non li dà, magari le dà la metà, ma già 40 ampere sono buoni. Ho capito. Poi con la morsettiera, mamma mia, sì, copre i contatti, ma metti che ci metta la zampa il gatto e un pelo riesce a passare in mezzo millimetro di spazio, ma che gli arriva la schicchera subito, Finta di bere si raddrizzami. Stavo dicendo, Marco, quello perché non si sta nelle frequenze sue invece rompere i coglioni da noi. Vada a fanculo. Sì, scusa Natalia, ma scusate il telefono. Qua in regia mi chiedono un caffè d'urgenza che si sta addormentando la platea. Un attimino, faccio questo caffè. Ti prendi Natalia. Ok. Ma oggi il merlo non entra. Sarà impegnato. Quello è sempre a caccia di donne. E beh, ma non sei uscito, tu eri? Non sono uscito. Aspetta, mi si è abbassato il volume. Natalia, ero in piedi, il cavo ha strisciato sulla manopolina del volume e me l'ha messo a zero. Colpa mia. Sì, vabbè. La sua nonna qua. Tutti altri. Cosa ti avevo chiesto, Natalia? Nell'alimentatore stavi dicendo che il gatto se arriva un pelo lì gli fa barba a capelli. Sì, guarda, basta un pelo. Lui ci mette la zampa, sì, c'è il coprimonsetti, ma metti che un pelo passi lì, riesce a toccare, gli arriva la schicchera. Lo fa con i peli dritti. Capito, l'hai, chi è quello lì? Aspetta che guardo. No, chiedevo, ma il merlo oggi non entra? Gianni non entra. Sarà impegnato, avrà trovato qualche donzella, penso. Infatti stavo pensando anch'io, sicuramente sta ciuppando, perché se non è al baracchino sta ciuppando. Oh signore, viene dentro. Ehi, briciola, frigido. Ui. Beh, carissimo, a riposo sì, o devi andare. Che cazzo, già mi vuoi fare, Natalino? Cazzo, non mi va a cari, quindi sono rimasto fatta, venuti. No, stasera non devi andare. No, domani mattina alle 6. Alle 6 devo essere dal servizio, fino alle 19. Va bene, di giorno già va bene, dai. Vediamo che non faccio a caldo, anche se no mi biglio il gatto in isolazione a Cabassoli. Tranquillo che fate tempo maro. E allora mi sdraio lì nelle sedile della macchina. Arrecati una dramata, abbassi tutti i sedili, ti fanno una dramata, ti fanno un letto matrimoniale. Peccato che non c'ho la televisione, cazzo. Ma tu non ce l'hai un computer portatile? Sì, ce l'ho il portatile, ma non ce l'attacco a 12, io marco io. No, perché volendo per poche decine di euro, 30 euro, compravi quelle chiavette col digitale terrestre e te lo guardavi con lo schermo del computer portatile. Però non hai l'alimentazione, così è. Io una volta ce l'avevo l'alimentatore per il computer, per la macchina. Poi è sparito anche quello, sparito, tutto sparisce qua. Come? Non ho capito, ma per vedere la televisione dici tu? Una chiavetta col sintonizzatore digitale terrestre. Esistono? No, la prima cosa che sento. No, già ci sono, Manuel. Vendono anche gli alimentatori a 12 volt. Gli dici che modello di computer è e ti danno il suo alimentatore. Adesso mi informo. No, più che altro mi serve quello per vedere la televisione, quello che stava dicendo Marcolino, ti attacchi alla chiavetta. All'USB. Sì, che già ci sono. Ci sono quelli, però ti serve anche l'alimentazione a te. Sì, a 12, che va a 12. Però a 12 è un casino. Adesso non lo posso attaccare perché sennò devo tenere sempre il motore acceso. Te l'ho detto, mi butta giù la batteria. Perché l'accendisigari lo devi mettere diretto alla batteria. Ed è pericoloso, perché se tieni sempre il quadro acceso ti può bruciare la bobina, amico. Però può chiudere il blocchetto di uno scatto, cioè il quadro spento per uno scatto che va bene per accendere l'accendisigari, almeno su quella nostra è così. Cioè, mi pare due scatti, il primo sblocca il blocco acceso, il secondo in teoria non fa nulla, al terzo ti si accede il quadro, però se poi tu torni indietro di uno scatto, il quadro e la bobina sono spenti, però ti arriva l'alimentazione al cavo accendisigari. Ma non fa prima attaccarlo l'accendisigari e a metterselo diretto alla batteria, e così non rischia di bruciarsi la bobina, che sennò da voi non ribolle in moto la macchina. Sì, ma infatti io per esempio per il baracchino prendo direttamente dalla batteria, c'è il cavo diretto. Perché quando è in moto va bene, ma se tu lo tieni a motore spento il quadro è pericolosissimo. Eia, me lo ricordo, ce lo diceva anche a scuola guida, a parte la bobina si potrebbe bruciare, poi A me non mi è mai capitato, per fortuna. Beh, il gommino. Ma lui la deve lasciare tutta la notte acceso, mi. Cazzo, lo sai, lui che fa se travaglia indietro. Se invece va l'alimentazione diretta dalla batteria, il quadro lo lascia spento. Ma infatti bisogna stare attento, tante ore. Vabbè, bianco per me, vado a fare questo caffè. Franco, il primo. Ciao, Cimbombi, Beh, Fancuso. Va me l'agnello, congelato. La bomba, Una bomba, cazzo, ma di acqua è congelato di si è stata mia a rubare. Me la raffredda. E lui.